hanno detto che tutto passa. Datti tempo e bevi un altro drink. Un'altra tipa che mi passa in stanza. Non mi trova il cuore ma l'ho messo lì. Ne vuoi parlare? È una storia che agli Oscar prende il miglior film. Ho la canzone, il testo ce l'ho scritto e fa più o meno così. Mille donne non saranno come te mai. Mille baci non sono come uno tuo. Mille notti che sono senza di te sai. Mille volte sto scrivendo il nome tuo. Mille pare, ma ti pare, non mi levare questa maledetta strofa. Mi rimane che fa male ricordare questa maledetta storia. Io lo so che ti piace, che sono un bravo amante, ma d'amare non ne sono capace. Io lo so che ti piace, se mi lancio per cadere poi tu resta a guardare. Tu, tu, sangue e miele, rose nel bicchiere. Tu, tu, mi fai bere acqua e cherosene. Ma ora che sono a mille passi da te, qua è tutto nuovo. A parte il fatto che mille donne non saranno come te mai. Mille baci non sono come uno tuo. Mille notti che sono senza di te sai. Mille volte sto scrivendo il nome tuo. Mille pare, ma ti pare, non mi levare questa maledetta strofa. Mi rimane che fa male ricordare questa maledetta storia. Ho scritto un testo forte solo perché certe cose non le so dire. Ho scritto un testo forte solo perché voglio farti sentire che mille donne non saranno come te mai. Mille baci non sono come uno tuo. Mille notti che sono senza di te sai. Mille volte sto scrivendo il nome tuo. Mille pare, ma ti pare, non mi levare questa maledetta strofa. Mi rimane che fa male ricordare la nostra maledetta storia. Mille donne non saranno come te mai. Mille baci non sono come uno tuo. Mille notti che sono senza di te sai. Mille volte sto scrivendo.